questo. Radio Tube, l'intervista di Marta Cagnola. Un saluto da Marta Cagnola, il momento dell'intervista di RadioTube, come sempre con i grandi protagonisti dello spettacolo. Studi di Radio 24, Milano. Un periodo di lavoro e riflessioni sul futuro della musica. A RadioTube, Paolo Fresu. L'unica cosa che ci accomuna in questo momento, in un momento in cui il mondo sembra così variegato, così eterogeneo, così spezzettato, diciamo così, alcune volte a questo spezzettamento abbiamo contribuito noi, purtroppo moltissimo, c'è un'unica verità, credo, che è quella che ci accomuna tutti, che esiste un nemico, che questo nemico è da combattere, che questo nemico ci ha obbligato a cambiare le nostre abitudini di vita, a rinchiuderci tutti in casa. Detto ciò, poi ognuno nella propria casa ha provato a ricostruire il proprio mondo. Io personalmente l'ho costruito, non ero mai stato a casa così tanto tempo negli ultimi 40 anni, e quindi io a casa, per esempio, non ho mai voluto avere un home studio, uno studio di registrazione. E stavolta mi sono comprato una scheda audio e ho iniziato a casa, per esempio, a registrare, a produrre musica, a fare appunto fare i featuring con Mirko Casadei per un brano per l'ospedale di Rimini, oppure con Ornella e Rita Marcotulli, i featuring insieme a Luca Barbarossa con Ada Montellanico e Bebo Ferra, ognuno dalle proprie case, ovviamente sempre rigorosamente per il 1° maggio. E tante cose che posto poi nel mio Facebook, principalmente la domenica, come così pensiero, regalo per gli amici, tante cose. Poi la battaglia anche sui nostri diritti, sulla situazione, anche la battaglia sulla riapertura dello spettacolo per l'estate, la battaglia sulla precarietà degli artisti. Quindi oggi che si riaprono anche le attività dei concerti il 15 di giugno, noi che già come con il mio festival di jazz pensiamo alla riapertura, iniziamo a riscrivere i programmi, a fletterli, a cambiarli, ecco, diciamo che in questo tempo non ci siamo noi. È uno di quei giorni che ti prende la malinconia, che fino a sera non ti lascia più. La mia fede è troppo scossa ormai, ma prego, penso tra di me, proviamo anche con Dio, non si sa mai. E non c'è niente di più triste in giornate come queste che ricordare la felicità, sapendo già che è inutile ripetere chissà, domani un altro giorno si vedrà. È uno di quei giorni in cui rivedo tutta la mia vita, bilancio che non ho quadrato mai. Posso dire d'ogni cosa che ho fatto a modo mio, ma con che risultati non saprei. Sono servite a niente esperienze, delusioni, e se ho promesso non lo faccio più. Battaglie, hai detto battaglie, però non sono battaglie solitarie. Qualche giorno fa hai presentato il Forum dell'Arte dello Spettacolo con bravissimi colleghi, con Diodato, con Frankie High Energy. Un manifesto firmato a più voci che evidenzia molte cose, ad esempio il fatto che c'è una categoria di lavoratori in difficoltà, ma anche quanto questa filiera sia necessaria per l'economia, per il turismo. Innanzitutto il fatto che vi siate messi insieme e abbiate scritto delle cose è importante. Beh, innanzitutto le battaglie si fanno sempre assieme. In questo momento il coronavirus non ha fatto altro che portare a galla tutte le difficoltà del passato. Quindi la precaria condizione degli artisti in Italia che non sono tutelati è venuta a galla nella sua purtroppo gravità. Oggi gli artisti veramente, non solo gli artisti ma anche tutti i lavoratori dello spettacolo, cioè quelli che sono dietro, i palcoscenici, sono tantissimi. Contiamo di essere forse 500.000 di persone, e non sono poche, 500.000 di persone sono lo 0, forse 6-0,7% della nostra popolazione odierna. sono veramente in crisi. I 600 euro che lo Stato propone, che oggi, dopo il primo decreto, non sono potuti arrivare a tutti, perché poi ci sono mille regole, mille interpretazioni. Non entriamo in merito poi al fatto che tutti questi aiuti sembrano non arrivare nel modo dovuto, pone una problematica molto, molto importante. Cioè, quindi tre problemi dal mio punto di vista. Il primo è quello del cercare di tutelare i lavoratori nell'immediato. Una professione, dunque, può essere mantenuta in vita solamente se poi si riprende a lavorare, non può essere solamente l'assistenza, e l'assistenza è una parola che non ci piace. Ovviamente chi ha la possibilità, chi ha la voce più forte, chi è un musicista anche un po' conosciuto, deve occuparsi delle problematiche degli altri, e non è come tanti hanno detto dopo il proclama di Tiziano Ferro da Fazio, dove io ho preso le sue difensive: tu stai zitto che tanto non hai bisogno. Proprio quelli che non hanno bisogno, e anch'io in qualche modo, seppure non sia Tiziano Ferro, mi metto tra i non bisognosi. Ecco, quindi noi abbiamo la responsabilità di portare le istanze degli altri verso i tavoli del governo. E poi c'è il terzo punto, che è quello più importante, che è quello che incarna un po' il manifesto del Forum Arte Spettacolo, cioè quello partendo dallo Statuto Sociale degli Artisti, la risoluzione numero 7 del giugno del 2007 dell'Unione Europea, del fatto che gli artisti devono avere un ruolo nella nostra società, deve essere un ruolo sociale, deve essere un ruolo politico, deve essere un ruolo economico, e dunque devono avere delle tutele che oggi non hanno assolutamente. Quello che bisogna fare è uscire dalla crisi con una nuova visione del lavoro di coloro che si occupano dello spettacolo. E per fare questo siamo partiti da una petizione, che è stata una petizione di tre artisti del mondo del jazz, tra l'altro, il sottoscritto insieme ad Ada Montellani e Simone Graziano, l'abbiamo chiamata Ve le suoniamo, ha avuto un grande riscontro, circa quasi 70.000 firme. Abbiamo detto: beh, non ci consideriamo dei collezionisti di firme, dobbiamo prendere queste firme e metterle da qualche parte. Quindi è nata l'idea del dire: proviamo a dialogare con gli altri, proviamo a dialogare con tutti quelli che in questo momento necessitano, hanno bisogno, stanno dialogando a loro volta, mettiamoci assieme. È nato il Forum Arte e Spettacolo, siamo partiti in pochi, questo forum si è allargato sempre di più ed oggi è diventato una realtà veramente molto importante, che consta di circa 70-80 tra associazioni e realtà che fanno parte non solo del mondo della musica, ma del mondo più vasto dello spettacolo e della cultura, e al quale sono uniti anche quasi 100 persone singole. Paolo, tu hai incontrato insieme ad altri artisti a fine aprile il ministro Franceschini. Adesso queste prime aperture, con le prime regole, vorrei sapere cosa ne pensi. Ma intanto sì, c'è stato questo incontro e mi piace pensare che forse qualcosa sia accaduto anche per via di questo incontro che lui ha voluto fare con dei rappresentanti di alcune delle categorie, non solo quella della musica. Il fatto che si possa ripartire il 15 giugno penso che sia probabilmente la novità più importante dal mio punto di vista, perché questo permetterà di rimettere in moto un'economia circolare. Ci sono ovviamente degli eventi per decine di migliaia di persone che non si possono realizzare, che sono pressoché impossibili, perché anche potendoli fare, cosa che credo sia molto difficile, come dire, farebbero sì che ci sia un danno economico poi dal punto di vista dei promotori, degli organizzatori, che non, come dire, non giustifica la messa in moto di una macchina così, così straordinaria. Ma siccome è stato dato questo tetto delle 1.000 persone all'aperto e del 200 persone al chiuso, questo significa che si potranno riprendere manifestazioni che sono fatte in spazi all'aperto mediamente piccoli con le regole del distanziamento sociale. Cioè noi garantiremo totalmente tutte le regole che ci saranno date e abbiamo come realtà una responsabilità molto importante. Non me ne si voglia se uso come esempio quello del mio festival che conosco da vicino. Il Festival di Berchida quest'anno arriva alla 33ª edizione. Un budget intorno ai 700.000 euro, che sembrano tanti per un festival fatto in un paese di 3.000 abitanti, ma che produce un indotto economico netto sul territorio di 3 milioni di euro. 700.000 euro, noi abbiamo il 60% circa dei soldi pubblici, significa che i cittadini contribuiscono a questo festival con mediamente 350.000 euro, 400.000 euro, che rende ai cittadini praticamente 6 volte di più, 5 volte di più. Sappiamo che tutto sarà in salita, dobbiamo trovare la modalità intelligente, con energia, con forza e anche con passione, perché noi siamo felici di ripartire perché questo anno il coronavirus ci offrirà l'opportunità di rivedere totalmente le cose e di mettere soluzioni nuove, alternative, creative, belle, rispettose. Sarà una sfida. Quella dello spettacolo dal vivo, dei piccoli concerti, secondo me è fattibile e noi siamo pronti a muoverci per andare avanti. Quindi ci risentiamo di nuovo per parlare di Time in Jazz 2020. Assolutamente sì, noi volevamo fare la conferenza stampa da prima, avevamo già il programma pronto, adesso quel programma lo massacreremo in parte perché dobbiamo adattarlo alla nuova realtà che viviamo, ma noi eravamo pronti anche prima a fare la conferenza stampa perché siamo sempre stati convinti del bisogno di riaprire e l'avremmo fatta prima. Prima avremmo detto: noi siamo pronti, diteci quando partire, noi ci incamminiamo e nel momento in cui ci troveremo un fermo nella nostra strada, noi ci fermeremo semplicemente. Oggi diremo le stesse cose, ma diremo: la strada, abbiamo fatto già un pezzo di strada in più rispetto a prima. Se poi dovremo continuare a fermarci perché la curva del coronavirus riprenderà e tutti speriamo che questo non accada. Per tutti noi e per dare un senso a quei 3 mesi che abbiamo passato chiusi in casa, beh, noi siamo pronti a correre, cioè, come dire, ci togliamo i vestiti, ci mettiamo le scarpe da ginnastica e corriamo veloci verso il traguardo. Beh, nel caso di Berchida ci mettiamo anche il costume da bagno perché vogliamo goderci tutta la Sardegna, il mare a due passi, così ci andiamo. Assolutamente sì. Ma possiamo camminare anche scalzi, perché in Sardegna si può camminare anche scalzi, io lo faccio. Grazie, grazie a Paolo Fresu. Buon lavoro, buone battaglie. Nel mio piccolo continuerò ad annoiare gli ascoltatori ogni settimana parlando di quanto importante è questo settore. Forse finora davamo per scontato tante cose e anche questa, ora cominciamo a capirne un po' di più. Grazie. Io credo di sì, è stata una parola molto bella, continueremo ad annoiare gli spettatori perché solamente se li annoieremo, come dire, non ci sarà più la noia, perché trovo questo molto, mo molto bello. Ogni cosa va sempre vista da un altro luogo per comprenderne il significato. E auguri anche a voi, perché voi state in questo momento, come noi, del resto come tutti, nelle maniere più diverse, avete un ruolo fondamentale al tempo del coronavirus, quindi un augurio reciproco. Ed è tutto per questa puntata di RadioTube, l'intervista con Paolo Fresu. I prossimi appuntamenti con RadioTube sono il sabato con Social Village e Social Network in diretta dalle 16.